Storie italiane. L'insalata. Molto tempo fa c'era un buon cacciatore. Era un brav'uomo. Un giorno, durante la sua passeggiata, incontrò una vecchia che gli chiese: Buongiorno, buongiorno. Sembri abbastanza bravo. E io ho fame e sete. Dammi qualcosa da mangiare. Ebbe pietà della vecchia signora e le diede tutto ciò che aveva. La donna era felice. Così lui decise di andarsene, ma la donna lo fermò. Ascolta, mio giovane amico. Sei molto gentile, quindi ti dirò un segreto. Sulla strada vedrai una grande quercia sulla quale ci saranno tre uccelli con un magico mantello che esaudisce i desideri. Spara una freccia in mezzo agli uccelli e prendi il mantello. Raccogli anche una piuma. Finché l'avrai, ogni mattina troverai una moneta d'oro sotto il tuo cuscino. Grazie, vecchia signora. Se questo accadrà davvero, sarà per me grandioso e te ne sarò per sempre grato. E così il cacciatore andò a casa, appese il mantello alla parete e dormì nel suo letto con la piuma nella tasca del pigiama. Era una bella giornata. Il cacciatore si svegliò e controllò sotto il cuscino e vi trovò una bellissima moneta d'oro. Il cacciatore felice continuò a tenere la piuma con sé e ogni giorno trovò una moneta d'oro sotto il cuscino. Raccolse abbastanza oro per riempire un barattolo. Quando il barattolo fu pieno, disse a se stesso, guardando fuori dalla finestra: Ora sono un uomo ricco. Cosa farò qui con tutta questa ricchezza? Devo andare in giro per il mondo, viaggiare lontano. E così il ricco cacciatore partì per la sua avventura. Viaggiò attraverso foreste, fiumi, montagne e città. Con il suo mantello e le sue piume, continuando a trovare monete d'oro in ogni posto in cui dormiva. Finché un giorno raggiunse un bel castello e vide una bella e giovane donna insieme a una vecchia signora. Lo vedi quel giovane? Ha con sé due cose di preziosa magia. E dobbiamo togliergliele. Permettimi di accoglierlo. Non ho mai visto una donna così bella. Cosa ti porta qui, signore? Come posso aiutarti? Salve, sono in viaggio. Sono stanco e vorrei rimanere nel vostro castello per qualche giorno. Ho abbastanza soldi per pagarvi. Molto bene, entra per favore. I giorni passavano e il cacciatore, perso d'amore per la giovane donna, trascorreva il suo tempo nel castello. La strega gli rubò la piuma mentre dormiva, ma il cacciatore non reagì. Poiché era innamorato della bella donna, la sua ricchezza iniziò così a finire per pagare il suo soggiorno alla strega. La strega, però, desiderava anche il mantello. La vecchia strega parlò quindi con la giovane donna di fronte al fuoco di un caminetto nel castello. Dobbiamo prendere anche il mantello. Quell'uomo ha già perso le sue ricchezze. Per favore, lascialo stare. Tu farai come dico io e mi farai avere quel mantello. Ciao, cara. Sembri preoccupata. Cosa ti rende triste? C'è una grande roccia su cui giacciono grandi diamanti e pietre. Nessun uomo può raggiungerla. Voglio andare lì, ma non posso. E questo mi rattrista. Se questo è il tuo desiderio, allora lo realizzerò subito. fatto davvero! È fantastico! Grazie mille, amore mio! Sono contento che tu sia felice. Ti spiacerebbe se mi riposassi sul tuo grembo per un po'? Sono molto stanco. Il cacciatore si svegliò e si rese conto di essere stato incastrato. In preda alla rabbia maledisse le due donne. Come sono disoneste le persone! Cosa ne sarà di me? In quel momento vide tre giganti dirigersi verso di lui. Rendendosi conto che non poteva correre, si finse morto. I giganti si misero a discutere tra loro su cosa fare di lui. Uccidiamolo e mangiamolo! Le nuvole lo porteranno via da qui! Non mettiamoci nei guai! Attireremo più uomini qui! Se posso guidare una di queste nuvole, posso scappare da qui e forse trovare di nuovo il castello! E così venne la nuvola, che lo fece volare a una certa distanza e lo lasciò cadere in una fitta foresta. Da lì si diresse verso il castello, usando il sole durante il giorno e le stelle nella notte per trovare la giusta direzione. Trovò un campo di verdure lungo la strada. Affamato, decise di tagliare un po' dell'insalata e mangiarla. Si sentì strano e divenne una capra. Il cacciatore capì che l'insalata di quel campo era magica. Si lasciò prendere dal panico e ne mangiò un diverso tipo. Questo vi aiuterà a recuperare le mie ricchezze e ad insegnare una lezione a quelle due ingannatrici. Chi è sei, zozzone? Cosa vuoi? Signora, sto viaggiando. Dovevo prendere l'insalata migliore del regno per il re. L'ho trovata e presa, ma ho bisogno di riposare per una notte. Davvero? Mi farai assaggiare la migliore insalata del regno? Certamente, signora. Questa insalata è abbastanza deliziosa. In effetti lo è. Così il cacciatore recuperò le sue ricchezze, ma non aveva ancora finito con le due capre. Diede le capre a un mugnaio e gli ordinò di dar da mangiare alla vecchia, la strega, fasce tre volte al giorno e fieno una volta al giorno. E alla giovane, la ragazza, fieno tre volte al giorno e fasce una volta. Pochi giorni dopo, il mugnaio tornò con la giovane capra. Sire, la vecchia capra è morta e questa sembra così triste che non durerà troppo a lungo. Mio caro cacciatore, mi dispiace per tutto. La strega mi ha costretta. Non ho potuto fermarla. Ti perdono perché credo in te e ti amo. E così vissero felici e contenti.